Soundcheck. Il suono della musica. I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be, 'cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claims. And if I ever leave me, she don't love nobody but me. La voce di Lou Rawls in Nobody But Me qui al soundcheck di Radio 24. Oggi i nostri ospiti, grandi maestri dello swing italiano, veterani del ritmo e della musica come il maestro Gegé Munari e il maestro Giorgio Rosciglione. Avete svezzato intere generazioni di musicisti, ma prima di raccontare la vostra attività oggi come insegnanti di musica e ancora come eccellenti musicisti, raccontiamo un po' come è nata la vostra passione per la musica e da dove viene il vostro swing. Gegé Munari, iniziamo da te. Tu sei napoletano, che musica si ascoltava a casa? Ricordiamo che Gegé farà 80 anni la prossima estate, quindi stiamo parlando quando hai iniziato a fare musica, quanti anni avevi? Io ballavo prima, avevo 7-8 anni, tu lo sai che faccio un po' di clacchetta. A 7-8 anni ballavi, tip-tap diciamo, e poi avevo tutta la famiglia, mio padre al basso, i miei fratelli batteria e sassofono, uno zio alla chitarra e mia sorella che cantava. Però allora facevamo tutti pezzi napoletani. Poi sono arrivati gli americani e mio fratello Armando il primo andò a Napoli alla NATO, parlò e ci presero come orchestrina al club ufficiale della NATO. Quanti anni avevi quando iniziasti nell'orchestrina? Lì ho iniziato a suonare la batteria perché mio fratello Pierino fu chiamato sotto le armi e io presi il posto suo senza aver studiato e come fatti. Quindi lo swing e il jazz arrivarono in Italia nel dopoguerra con i militari americani. I militari americani, sì. E il tutto, possiamo dirlo, è iniziato quasi a Napoli perché c'era la NATO, no? C'era la NATO, sì, al club ufficiale della NATO, che poi delle volte facevamo anche dei concerti a Livorno, a Foggia, e andavamo, pensa tu, dove c'erano le basi militari americane. Militari, bravo. E viaggiavamo, cioè col quadrimotore, la fortezza volante, pensa tu, e io mi mettevo sotto a vedere i mitragliatori dove c'erano le cupole lì. Ti dico, che belle cose, che belle cose hai visto, Gegé. Beh, insomma, sono storie antiche, possiamo dirlo, no? Sì. Giorgio, invece tu arrivi da Palermo, come hai iniziato, come ti sei avvicinato alla musica? Praticamente c'entrano sempre gli americani, perché ahimè lo swing e il jazz l'hanno inventato loro. Io nel 43 avevo 4 anni ed eravamo a Mondello, che è una località vicino Palermo, e a circa 300-400 metri di casa nostra avevano fatto un campo di americani, che poi sono i marinzi che sono sbarcati, il primo sbarco è stato in Sicilia, e che poi avrebbero risalito l'Italia per liberare. E un giorno mia madre mi mandò mio fratello a comprare il pane, che mio fratello, ahimè, che non c'è più, e aveva 13 anni. Passò vicino a questo campo di americani e mentre passava lì dietro la barriera che lo delimitava, c'erano dei marinzi da terra seduti che cantavano blues con la chitarra. Lui rimase folgorato, aggrappandosi a sta rete, e si è dimenticato del pane, tutto. A quei tempi, se non arrivavi in tempo, non trovavi più niente. E insomma, mio fratello buonanima diceva sempre: il mio incontro col jazz è stato poi un fracco di bastonate quando sono tornato a casa senza pane e senza niente, però ha portato a casa il jazz. E io da lì poi lui ha cominciato a comprare i dischi nel 47-48 e mi sono appassionato a questa grande musica affascinante. E così siete arrivati alla musica, per colpa degli americani e quasi per colpa della guerra, però la musica in qualche modo vi ha salvato, no? Ha salvato la vostra esistenza. E io non so in quale modo si è avvicinato alla musica questo ragazzino inglese che ha 19 anni, che si chiama Jacob Collier, o Collier, a seconda di come lo vogliamo pronunciare, sia alla francese o all'inglese. Questo ragazzo non ha ancora pubblicato un disco, ma le sue performance su YouTube ormai stanno spopolando. Voi lo conoscete, Giorgio? Sì, sì, lo conosco benissimo, ma veramente sono rimasto impressionato del grande talento e della grande musicalità di questo ragazzo sconosciuto, che però veramente ha delle doti incredibili. Un ragazzino bianco di 19 anni che qui interpreta a suo modo questo classico di Stevie Wonder intitolato Don't You Worry About The Thing, e suona e canta tutto lui da solo nella sua cameretta, un po' come facevi tu, JJ. Sì, gli arrangiamenti li fa lui, fa tutto lui, JJ, come facevi tu da bambino. Eccoci. Everybody's got a thing. Ospiti del soundcheck di Radio 24, quest'oggi il maestro JJ Munari, il maestro Giorgio Rosciglione. Non so, qua abbiamo già detto che JJ farà 80 anni la prossima estate, faremo una grandissima festa invitando tutti gli amici, tutti i musicisti che hai svezzato generazioni intere di batteristi italiani. Quali sono i batteristi che hanno seguito il tuo percorso in Italia, JJ? Roberto Gatto, Fabrizio Sferra, i giovani talenti Roberto Pistolesi, Nico Morello, Andrea Nunzi, Nicola Angelucci, sono tutti dei bravissimi batteristi. Tutti bravi questi ragazzi, tutti bravi, perché studiano tutti. Adesso bisogna studiare, no? Studiare. Lo swing ce l'hai dentro, ma bisogna studiare. Tu hai studiato? No, ho sempre suonato, è la verità. Ho solo suonato, mi sono messo sulla batteria e sono andato avanti. Scusa, quando ti chiamarono poi nell'orchestra della RAI, come arrivasti all'orchestra della RAI? Là non bisognava superare, fare un esame, non c'era un concorso, no? No, quando sono andato io no, perché già mio fratello Pierino venne chiamato da Trovaioli, da Ferrio e da Angelini, anzi no, prima da Angelini. E allora io facevo canzoni alla finestra a Napoli con Sergio Bruni, Mario Merola, mi sentirono e disse: Pierino, ma quello è tuo fratello? Sì, e fallo venire a Roma. E così mi sono trovato a Roma. Quanti musicisti e artisti hai accompagnato con la tua batteria suonando in orchestra in Rai? Tanti: Mina, Lisa Minelli, Mireille Mathieu, Jerry Lewis, eccetera eccetera. Poi Giorgio si può ricordare anche più di me, perché sono un po' ricoglioso. Cioè, Giorgio è la tua memoria storica, eh? Cioè, tu le cose le hai fatte, ma se le ricorda Giorgio. Allora vediamo di ricordare con Jerry Lewis che è successo. So che è successo una cosa particolare, perché tu suonavi il basso elettrico, però Jerry Lewis non voleva il basso elettrico. Era così, io sono stato scritturato dalla RAI come basso elettrico. E ogni tanto veniva qualche maestro come amico, come Gianni Ferrio, Trovaioli, Ferrio, e dice: no Giorgio, questo pezzo qua per favore suona il contrabbasso. E io suonavo il contrabbasso. Poi arrivato a un certo punto non mi riconoscevano mai questo merito di avere il contrabbasso, finché il capo del personale mi disse: Giorgio, tu non lo suonare più per nessuno, assolutamente non lo suonare. Nel senso che c'era un contrabbassista titolare e tu suonavi il basso elettrico, questa era la cosa. Io ero già titolare, ma ero stato scritturato solamente come per basso elettrico. È quello voglio dire. Sì, quindi allora un giorno facevamo un programma bellissimo al delle Vittorie, sempre con Antonello Falco, e venne ospite Jerry Lewis, e il quale, come tutti voi sapete, lui fa quelle gag con la macchina da scrivere, e in quel caso lì era il brano era Cute, un brano di Count Basie che ovviamente era col contrabbasso. Allora quando abbiamo cominciato già le prime 8 battute col basso elettrico, Jerry Lewis fermò l'orchestra e disse: stop, I need acoustic bass. Allora io ho detto: no, I can play out. Insomma, per farla breve, diciamo che tu per motivi sindacali, Rai, non potevi suonare il contrabbasso, però Jerry Lewis voleva il contrabbasso assolutamente, e quindi si è bloccato lo studio, fermo lo studio più di mezz'ora. Antonello Falco mi diceva: Giorgio, per favore. No, dicevo: guarda Antonio, non lo posso suonare perché non ce l'ho in contratto, quindi non è regolare. poi fui chiamato dal direttore generale, allora il dottor Guglielmi, che mi disse: Rosciglione, guarda, per favore, sono il contrabbasso, lei domani va all'ufficio personale e riceverà tutte le richieste che lei, insomma, in poche parole, per farla breve, ho ottenuto quello che mi spettava grazie a Jerry Lewis. Quindi Jerry Lewis ti ha fatto avere un doppio contratto, il che significa che oggi tu percepisci una doppia pensione da bassista elettrico e da contrabbassista. Non so se questa cosa succederà a Esperanza Spalding, la tua giovane bellissima collega americana che suona sia il basso elettrico e il contrabbasso, e che qui ascoltiamo in I Can Help It al soundcheck di Radio 24. Check. Il suono della musica.